C'è stato un momento in cui anche la patata è stata al centro del dibattito ideologico. Quest'umile tubero che oggi tanto spesso viene in soccorso delle nostre povere mense, un tubero della famiglia delle Solanacee, viene dal Messico e dalle regioni andine, facendo parte di quel ricco bottino con cui gli spagnoli si ricompensarono della cosiddetta scoperta dell'America. Nella seconda metà del 1500 è già in Spagna, per poi piuttosto lentamente, come pianta rara e preziosa, diffondersi in Belgio, in Austria, in Germania, in Svizzera, in Francia, in Inghilterra e quindi in Irlanda, dove si guadagnò meriti effimeri durante la carestia del 1663. Dico che questi meriti furono effimeri perché molti anni dopo, quando ogni bravo contadino irlandese si era fatto il suo bel campo di patate, ci fu un'epidemia di peronospora, un fungo micidiale contraddistinto da un'intensissima attività sessuale, ragion per cui proprio i discendenti dei beneficiati in epoca di carestia ci lasciarono la pelle, morendo letteralmente di fame. Si era già a metà del secolo scorso e da poco la patata aveva fatto i primi proseliti in Italia, in grazia soprattutto del capodopera di un certo Antoine Augustin Parmentier, un farmacista francese già autore di un trattato sulla panificazione, che nel 1789, anno non da poco, aveva pubblicato il Traité sur la culture et les usages des pommes de terre, de la patate et du topinambour, ove il termine patate, ecco, non costituiva un'erronea ridondanza, ma bensì designava la patata dolce, altresì detta patata americana, meglio ancora poi batata con la B. Come noto, nella Miseria della filosofia, un testo del 1847, Marx si lamenta del prezzo dei carciofi e degli asparagi. In ciò si conferma peraltro anche tutta la sua attualità. Laddove spiega come nella sua epoca sia più facile produrre il superfluo che il necessario, e laddove conclude che l'uso dei prodotti è determinato dalle condizioni sociali in cui si trovano i consumatori e queste condizioni si fondano a loro volta sull'antagonismo di classe, Marx individua le patate, insieme al cotone e all'acquavite, come i prodotti di più largo consumo. E diavolo di un uomo non si lascia sfuggire l'occasione per illuminare il proletariato dei rischi che correrebbe. Dice infatti testualmente Marx che le patate provocano la scrofola. Ora, per chi non sapesse cosa fosse la scrofola, dirò che si tratta del medesimo pessimo sintomo che altri definivano ascessi tubercolari, cui lo storico Marc Bloch nel 1924 dedicò quell'opera fondamentale che fu I re taumaturghi. Il tempo di Marx considerava per scrofola quell'ingrossamento e quell'indurimento delle ghiandole linfatiche nel collo, cui immancabilmente seguivano suppurazione e piaghe più e meno ripugnanti. Che fossero tutte colpe delle patate, per Marx non c'erano dubbi. In una società fondata sulla miseria, spiegava, i prodotti più miserabili, come le patate, hanno la fatale prerogativa di servire all'uso della maggioranza. Ma non solo, massimo dell'inganno, dire che, poiché le cose meno costose sono le più usate, devono avere la maggiore utilità, significa dire al proletariato che la patata è per lui più sana della carne. Ecco, se ciò da un lato può documentare l'origine delle residue simpatie del mio amico Oliva per il marxismo, facendogli confondere il sol dell'avvenire con il fuoco necessario a cuocere bistecche alla fiorentina, dall'altro non poteva che aprire il fianco a caustiche critiche. prima ancora ben inteso che il capitalismo inventasse il colesterolo, vincolando così i destini del proletariato alla patata praticamente fino alla fine della storia. Infatti Sorel, nelle Illusioni del progresso, un testo del 1908, dopo aver notato come la patata in tempi di rivoluzione, sempre in grazia delle teorie di Parmentier, sia diventata l'ortaggio patriottico, non manca di rilevare, alludendo esplicitamente a Marx, come nei confronti dell'umile tubero abbiano agito dei veri e propri pregiudizi scientifici. Non a caso, dice Sorel, la patata diventa oggetto di una vasta campagna filantropica mossa da forze, i cui interessi sociali sono evidentemente chiari. Dal vescovo di Castres, che alla patata dedica una pastorale, a Luigi XIII, che ne approva gli esperimenti culturali. Se una scienza sospetta promuove la patata, tuttavia, sembra dire Sorel, non è assicurando che fa venire la scrofola che si sventola gloriosamente il vessillo del proletariato. Una scienza sospetta non si combatte con altra scienza altrettanto sospetta, ma svelandone quei valori che informano implicitamente di sé le sue procedure. L'Unione Sovietica, alla faccia del marxismo di cui si ammantava, è stata fino a pochi anni or sono uno dei più forti paesi produttori di patate. E anche a ben pensarci, sui pacchetti di patatine in vendita nei bar e nei supermercati non c'è affatto scritto: attenzione, nuoce gravemente alla salute. Due segni palesi della sconfitta del comunismo e di come questa sconfitta abbia radici lontane, tuberi lontani. Without me, just as you belong, everywhere I go.